la liquidità del sistema è abbondante e missioni di questo genere è logico che vengano collocate con abbastanza facilità per adesso. Si tratta di vedere come i corsi dei titoli più a lungo termine reagiscono a tutto questo. Non sono risolti i problemi di fondo, diciamo, politici italiani, i provvedimenti non sono ancora completi, ci sono problemi in Europa, ma soprattutto ci sono problemi nel sistema bancario e finanziario mondiale, direi, ma in particolare in quello europeo, in cui c'è ancora un ingolfamento dovuto a rischi più o meno nascosti e mancanza di trasparenza e di fiducia. Quindi, e poi ha un problema di lungo periodo, che è quello di un sistema bancario che deve ridurre le sue dimensioni, il suo grado di indebitamento, e nello stesso tempo però deve finanziare sia le imprese private in un periodo di crisi dove la domanda di credito ha un significato particolare e più rischioso, sia il settore pubblico che ancora per diverso tempo in diversi paesi sarà un vorace richiedente di credito, quindi è un problema abbastanza difficile da risolvere, insomma, a smontare il bilancio delle banche in 10 anni, ma nello stesso tempo finanziare molto sia le imprese che i governi è una soluzione difficile. Bisogna trovare il metodo, forse qualche metodo esiste e verrà trovato, ma è questo il problema di fondo.